Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocuis e separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qua, sono le 8 e 20 minuti, anzi 19 e 30 secondi. Quante notizie che arrivano, proprio stamattina tra l'altro. E vedi? Sulla vicenda attentati. Beh, diciamo che ieri in Francia è avvenuta una cosa che tutti temevano e che poi puntualmente è avvenuta, perché mentre c'è la diretta dell'ultimo dibattito sui candidati, è ovvio che anche il più sprovveduto sa che quella è il massimo di riscontro politico che può creare sulle elezioni di domenica e fare un attentato, poi Champs-Élysées, sì, eccetera. Quindi poi adesso questo non significa, cari ascoltatori, che sto dicendo è un favore diretto ed esplicito intenzionale fatto da Le Pen, però gli opposti si cercano, capite? Quindi di fatto è il candidato che da sempre propone la mano più tosta contro indagati, sospetti, anche questo non ho schedato e così via. Di fatto, sia intenzionale o meno, la conseguenza è quella. Poi vedremo, la quantificheremo. Però pensa che ancora non sappiamo niente, stavamo parlando di quello adesso, no? E no, invece a Borussia, cioè per la questione del Borussia Dortmund, quando c'è stato l'attentato, no, contro la squadra di calcio del Borussia Dortmund, è stata arrestata una persona, Sergei con la W puntata, 28 anni, doppia cittadinanza tedesca e russa, e lui invece, se è stato lui, pare sia stato lui, avrebbe agito per motivi finanziari e disseminando di indizi per far ricadere la colpa sull'ISIS. Insomma, quindi sarebbe un attentato proprio di natura diversa. I tedeschi questa volta ci hanno deluso, perché non capiamo ancora chi ha messo quelle bombe lungo il percorso, mostrando di sapere cosa era il dettaglio. Qui. No, ma anche in questo caso questo non sappiamo chi è il mandante. Cioè è una pista di estremismo che ha a che vedere con la storia politica tedesca nazionalista, per far andare la colpa eccetera. Sono interessi estranei, cioè, dicono per motivi finanziari, forse suoi, sono forse interessi legati ai soldi della coppa. Attenzione, questa vicenda è del tutto ancora non chiara. E diciamo, per essere la Germania, ci fa capire che ci sono state incredibili interviste, la stampa italiana non le ha riportate, di agenti di un certo peso della sicurezza tedesca che incolpano la scarsa collaborazione delle polizie del Land rispetto ai servizi centrali di sicurezza. Insomma, la Germania dopo le bombe di Dortmund ha scoperto che niente, non ha ancora preso le misure con il fenomeno, malgrado anni e anni di terrorismo. Questo comunque, per dire, questo per Oscar, dire. Oscar, i santi ci siamo persi. Ma i santi, tu pensi che potranno fare qualche cosa su vicende come queste? Non lo so. Oggi, no, per esempio, è un grandissimo santo che, in quanto piemontese, perché ha figlio di famiglia di una mamma piemontese, ma è il più grande cittadino della storia di Aosta, perché è Sant'Anselmo d'Aosta. Sant'Anselmo d'Aosta è una grandissima figura della chiesa. Lui a 16 anni se ne va via dalla famiglia, che naturalmente lo voleva, essendo una famiglia nobile, il erede naturale degli affari e dei beni del padre. Lui inizia a girare insieme a un ex servo di famiglia, gira per la Francia, gli viene la vocazione, diventa benedettino, diventerà uno dei più grandi teologi della chiesa, la prova ontologica dell'esistenza di Dio, no? L'ha scritta lui nel Proslogion, che è una delle sue due opere cristologiche più famose. Diventerà abate, perché poi vivrà sempre fuori a quel punto, diventerà abate di Canterbury, e per due volte costretto all'esilio perché difenderà i privilegi della, non i privilegi, le prerogative, sbagliato parlare di privilegi questa volta, le prerogative della fede contro il re, due re britannici che volevano comandare loro, e diventa una delle figure più grandi di riferimento della sapienza e anche di un certo rigore nei costumi. Io sono molto da sempre questo Sant'Anselmo, dai tempi del liceo, quando lo scoprì è uno dei miei punti di riferimento. Non mi mettete a ridere, ma invece è così. Tra le altre cose, ma l'avete già ricordato, anche con qualche punta di spernacchiatura, tremeazza, che oggi è il 2770esimo anniversario Teniamocela stretta, sto brandello di grandezza del nostro passato. Io lo so perché mio suocero, che è di Roma, confidava tantissimo che mia figlia Angelica nascesse il Natale di Roma, invece è nata il giorno prima, il 20. E abbiamo visto in che allineamento esatto, di compleanno. Poteva essere una cosa bellissima, invece. Angelica va comunque benissimo anche il suo compleanno. Però oggi, appunto, si celebra questo anniversario. Ci avete mai pensato che quell'anniversario è irreparabilmente bruttato da un fratricidio, dalla divisione, dal dispetto di un fratello verso l'altro che reagisce uccidendolo, e che questa è la grande stella di riferimento della storia italiana, la divisione, il considerarsi nemici, neanche avversari e altro che fratelli, il sangue. Questo devo dire, mi ha sempre colpito la profondità di questo messaggio. Tra i tanti compleanni però di oggi, voglio dirvi che io sono oggi unito a tutti coloro che festeggiano il compleanno di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, che è un punto di riferimento per me, è del 1926, quindi insomma iniziano a essere, siccome siamo nel 2017, un certo numero. Ed è la sovrana che ovviamente ha battuto la Regina Vittoria. Stiamo parlando di un punto di riferimento certo. Lunga vita a lei, Carlo aspetta ancora un po' che passi il testimone al figlio. E molto da riflettere sulla storia. Lasciami dire, e poi andiamo alle notizie del giorno, che la storia a volte mi sembra che qui faccia passi indietro. Io non riesco a capacitarmi di come l'AMPI non capisca da anni, progressivamente in più, che il 25 aprile tenere aperto sto problema contro la Brigata Ebraica e confondere questo grande patrimonio di unità, no? Del ricordo della lotta per la democrazia in Italia, confonderlo con le polemiche odierne contro Israele, mi sembra una cosa non all'altezza. Tutta la vita uniti nel ricordo della Brigata Ebraica, ci mancherebbe. Peccato per l'AMPI, io dico solo questo perché tra un po' viene il 25 aprile e sembra che quelli non ci siano stati, mentre il problema è chi governa in Israele oggi. Non può essere così. Comunque, c'è chi ci scrive: mi spiegate il caso Minzolini, prima lo salvano, poi rassegna le dimissioni e l'accettano. Guardi Paolo da Bologna, il mistero del Senato è che il senatore Vacciano, che noi spesso abbiamo ospitato, per la quinta volta ha presentato le dimissioni nel giorno in cui hanno accettato le dimissioni di Minzolini. Ha detto: invece, cavolo, allora è anche il mio tira turno, l'aria giusta, no? Tira l'aria giusta, no, a lui le hanno respinte per la quinta volta, quindi spiegare il quello Senato che... non approva, presenti 227 votanti 226. Però, insomma, senti il brusio, diciamo che è possibile un criterio di lettura per aiutare il nostro ascoltatore rispetto alle polemiche che erano esplose nel PD, tra le anime del PD, sul voto che aveva respinto, no? L'ipotesi più negativa per Minzolini la prima volta. Questa volta c'è stato un riallineamento. Sì. Ecco, essenzialmente è questo il modo in cui si spiega il voto, in cui hanno detto: beh, tu le presenti per dire coerenza, e noi per coerenza questa volta unite tre. Mentre guarda che Max dice e vorrebbe sapere come mai è una tua... un tuo riferimento la regina d'Inghilterra, ma mi spieghi esattamente e deve essere convincente. Io vi sottolineo tre fulminei brevissimi argomenti. Primo, un solo capo istituzionale senza prerogative particolarmente invasive, cioè non si inventa i governi, per essere chiari, come capita in Italia, perché è solo uno, ecco, è meglio. Nella storia si è dimostrata meglio di tutti quelli che abbiamo eletti noi, ondivaghi, e che si inventano governi, inventano prassi costituzionali. La regina ormai d'Inghilterra deve stare fuori da questo tipo di... Come dovrebbe fare un vero capo non eletto istituzionale, se posso permettervi di aggiungere. Secondo, non dimenticate che io la penso sempre in un certo modo, Buckingham Palace e la Casa Reale costa molto meno del Quirinale in Italia, capite? E questo mi sembra tutto un punto di riferimento. Tutto detto dal repubblicano Giannino, esatto. Giannino, cioè. Terzo, non sono diventato monarchico, però questa signora che faceva l'ausiliaria e non se n'è mai andata come il padre sotto le bombe a Londra ha dato una prova rispetto ai nostri Savoia infingardi che fecero la fuga a Brindisi e così via, di incomparabile spessore storico. Con il loro popolo sempre. Ecco, perdonate, ma sono tre punti. No, da re origine a, a un altro tipo di re, autoincoronatosi, perché vogliamo parlare un po' della Turchia. Ah, adesso credevo che mi parlassi di nuovo del marijuana day, no, no, per fortuna. No, qui no, a Legge uno strano odore in questo studio. Perché c'era Cruciani ieri che ha fumato, io no, no, no, diciamolo, perché se no dopo gli ho fatto sentire prima Bob Marley, dopo e si no, ma io quando vi ho visti partire teorie su Facebook ho iniziato a pensare, ai ai ai ai ai. No, no, no, parliamo di un altro re. Dice che viene il 20 sindaco Sala, però re, sì, anche se è anche se è solo un presidente in teoria. Erdogan, che trattiamo con solo un presidente. No, infatti era ironica un po' la cosa. Con la nostra Marta Ottaviani. Io dico nostra anche se scrive su Avvenire, scrive sulla Stampa, ma è un po' nostra Marta, no? Va bene, va Mastra bene è, ma Marta è nostra, Marta, nel senso che è un patrimonio di tutti coloro che sono interessati, certo, da anni e anni a capire quello che grazie a lei si capiva che sarebbe avvenuto, cioè il reis che comanda come un dittatore. Ciao Marta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. God save the Queen. Insomma, se c'è un attimino di tempo, pensi un attimo anche a noi. Un attimo anche a noi. No, lì Erdogan, la svolta autoritaria c'è stata. Intanto sappiamo che, voglio dire, di fronte al referendum e le accuse di brogli, Erdogan ha respinto tutto dicendo ed è stato tutto chiuso, cioè tutta la questione proprio non verrà riaperta neanche per mezzo secondo. Il referendum è passato, no, e basta. Assolutamente, ma poi a chi gli ha fatto notare che non ha vinto, diciamo, con un plebiscito, perché nonostante dei mezzi di comunicazione ampiamente sproporzionati, il fatto che ci siano migliaia di persone in carcere e il fatto che in alcune zone non abbia praticamente avuto nemmeno modo di far campagna, Erdogan ha preso solo il 51,41% dei consensi. Ecco, a chi gli ha fatto notare questo dato, Erdogan ha detto: non importa se sei un gol oppure 5, l'importante è portare a casa il risultato. Per dire, insomma, ho vinto 1-0 atteggiamento, sì, esatto. Ho vinto 1-0 streminzita, ma ho vinto, questo è il concetto, esatto. Ricordiamo che, tra l'altro, e dopo ne parleremo anche della vicenda di Del Grande, in prigione italiana. Beh, ti direi proprio di sì, assolutamente sì. La più grande prigione al mondo per giornalisti, questo titolava l'Espresso, la Turchia in questo momento. Sì, in questo momento in Turchia ci sono 149 giornalisti in carcere, e la cosa drammatica, che secondo me va sempre ricordata, è che non sono giornalisti in carcere per reati connessi al loro lavoro, per reati connessi alla stampa. Sono giornalisti in carcere con l'accusa di terrorismo, di appartenenza o propaganda a organizzazione terroristica, quindi accuse gravissime che possono essere punite con l'ergastolo. Ed è una cosa veramente terrificante, perché mesi fa il presidente Erdogan aveva detto: una volta i terroristi avevano solo i fucili, adesso usano anche le penne. Per dire come, insomma, da questo momento in avanti, soprattutto col passaggio di questa riforma costituzionale, chi la pensa in maniera diversa da lui corre seriamente il rischio di finire in galera o di vedere ancora più limitati quelli che sono i diritti fondamentali di un paese civile. E del resto ricordiamo che con la più vasta purga che si ricorda nei tempi moderni, perché stiamo parlando di 120.000 persone interessate da provvedimenti di restrizione della libertà o espulsione dai quadri della pubblica amministrazione, eccetera eccetera, 120.000, non si sono fermati neanche di fronte al fatto di ficcare in carcere dirigenti di partiti di opposizione parlamentare. Quindi stiamo parlando, non so di che prove abbiamo bisogno per mettere il timbro su questo regime di Erdogan, però vedo che sono tutti molto timidi, paesi europei, non siamo riusciti neanche a ottenere lo stop formale, pensa, dei contatti, che formalmente la trattativa è ancora in corso per l'ingresso nell'Unione Europea della Turchia, neanche questo siamo riusciti, sì, a parte le dichiarazioni, non so, anche al Fano, al momento non è sul tavolo, non no, è sull'agenda, però è interessante, Marta, perché l'Europa secondo te è così timida nei confronti della Turchia, che appunto vorrebbe entrare in Europa e confina con l'Europa? Ma la risposta è drammatica. Molti analisti turchi concordano nell'affermare che Erdogan e l'Europa vada benissimo, perché comunque è garante di una stabilità interna che verrebbe a mancare nel caso, quando Erdogan perderà il potere. E c'è un particolare molto importante che io voglio sottolineare. È vero che Erdogan ha vinto solo col 51,4%, ma nel fronte del sì la stragrande maggioranza ha votato Erdogan e solo lui. nel fronte del no ci sono tanti partiti e tanti riferimenti politici, ci sono kemalisti, repubblicani, democratici, socialisti, comunisti, curdi, ultranazionalisti, e sono tutte delle componenti che sono in contrasto tra di loro. Pensiamo solo ai curdi e agli ultranazionalisti, se si incontrano per strada si ammazzano. Quindi Erdogan sa di aver vinto di misura, ma sa che ha 25 milioni di persone che vedono in lui un leader incontrastato. Il problema è questo: ci sono due Turchie in questo momento, una che vuole un sultano e segue solo il suo sultano, e una che invece vuole una piena democratizzazione ma non ha un leader di riferimento che possa mettere d'accordo tutti quanti. E temo che per anni questa sia la condizione che può permanere, perché esattamente però c'è questo. Però rischia di esplodere questo, perché un paese così diviso rischia di esplodere, perché quello ce l'ha in mano lui. Io non lo so, certo, io temo molto che passeremo anni con questo sistema nelle sue mani. Ma guardate, la mia opinione è questa: finché non viene risolta la questione curda, allora Erdogan ha la certezza matematica che starà al potere praticamente per sempre. Vedi. Perché? Perché la questione curda rappresenta il maggiore motivo di divisione nel fronte del no. E attenzione, non sono solo gli ultranazionalisti a non volere la soluzione. Mm-hmm. Quando io in questi giorni sui social network, che ormai sono il passport dell'era moderna, leggevo gente che diceva continuiamo a dialogare con quel 48% che non ha votato Erdogan, ecco, questi non sanno che se arriva un europeo davanti a un ultranazionalista, quello, se è educato, piglia, lo insulta e se ne va, altrimenti rischia anche, l'europeo rischia anche di beccarle. Quindi insomma è un paese con tantissime componenti, con tantissime contraddizioni, e purtroppo molto spesso viene conosciuto attraverso delle semplificazioni e dei luoghi comuni che non gli sono propri. Dovremmo parlare poi, perché tra poco avremo anche il senatore Manconi, dopo la pubblicità, di Gabriele Del Grande, no? 12 giorni che è anche su questo la mia impressione è autorità italiane, ovviamente uno dice quando c'hai un italiano praticamente sequestrato, perché in termini legali non si può definire diversamente, no? Non era arrestato, non poteva vedere gli avvocati, quindi sequestrato dalle autorità turche. Ora pare che la situazione potrebbe migliorare. Secondo me in questi giorni le autorità italiane hanno tenuto un profilo di una bassezza, voglio dire, poteva essere un profilo alto, metterla duramente nei confronti della Turchia, visto che bisogna portarla a casa nel più breve tempo possibile. Invece io non ho capito perché. Marta, ci sai dare una spiegazione? Perché le autorità italiane si sono tenute a questa linea bassissima sulla vicenda di Gabriele? Ma io mi sono fatta la mia idea. Diciamo che ci sono due modi, due approcci completamente diversi per riferirsi a come dire, problemi diplomatici. Erdogan ci ha abituato alle sue sparate, alle sue accuse, ai suoi inviti alla mobilizzazione, ha veramente accuse infamanti, vedi quella alla Germania di essere ancora dei nazisti, quando dire, con i capitoli storici che ha aperto la Turchia, che ha ancora aperto la Turchia, non mi lancerei in queste accuse. Io credo che il nostro governo abbia deciso di tenere un profilo basso per raggiungere il risultato. Certi che questo risultato con fatica ma arriverà. Tra l'altro secondo me lo sapremo a breve, sì. Perché Del Grande, se ho fatto bene i conti, oggi è o al 12° o al 13° giorno di cui sei, sì, di arresto, sì. E diciamo che dopo il 14° esatto, si dovrebbe sapere se ce lo restituiscono o se invece lo incriminano e lo lasciano in Turchia. Sì, perché 14 giorni per fare delle notifiche di qualche eventuale, esatto, accusa formale. Scadono il 23, tra due giorni, questi 14, esatto, giorni. E oggi il primo passo è che vedrà l'avvocato e il console Del Grande, questo almeno stando alle notizie, per cui si dovrebbe, però usiamo sempre il condizionale, siamo l'unico siamo veramente l'unico paese che adotta questi criteri nel dare ragione a chi fa i sequestri di Stato, cioè, per me è pazzesco, non è una questione, io non sono uno sfasciacarrozza, le relazioni diplomatiche si tengono coi toni e i metodi del realismo per tutelare al meglio poi la vita di chi si trova di mezzo in queste vicende. però capite che non si può sentire l'idea, perché non, se facessimo noi cose simili la reazione sarebbe giustamente un po' più dura, molto più dura verso un procedimento di questo tipo. Stiamo parlando di persone che nel nostro ordinamento, come un cittadino italiano, possiamo accettare noi 2 settimane di detenzione senza incontro con gli avvocati prima di formalizzare? No, perché nel nostro ordinamento non funziona così, e quindi noi dovremmo cercare per ogni italiano, tanto più per un giornalista che documenta in maniera utilissima per tutti, lo fa esponendosi a dei rischi professionali e personali, a maggior ragione doveva diventare un simbolo del fatto che l'Italia, diceva l'Erdogan, a maggior ragione con come hai vinto il tuo coso, subito, ecco, questo sbaglierò. Però vediamo. Intanto ringraziamo Marta Ottaviani, la nostra Marta Ottaviani. Grazie, io voglio aggiungere un'ultimissima cosa, perché è importante. Posto che io spero di vedere Gabriele libero oggi stesso, c'è un precedente pericoloso: Deniz Yücel, il giornalista turco-tedesco, che è stato dopo il 14° giorno incriminato per propaganda, organizzazione terroristica, ed è ancora in carcere. Io non voglio essere maligna o malpensante, ma non vorrei che la Turchia stia adottando queste misure per poi far pressione su tutta l'Europa. Ma è quel precedente che ci dice che vogliono prendere ostaggi i cittadini europei. Io per questo ho usato il condizionale: dovrebbe risolversi la situazione. Speriamo. Poi, tra l'altro, parlando del grande, ma ci sono anche tante situazioni, come il giornalista che ha raccontato Marta, e tante altre situazioni. Del grande ci colpisce di più in quanto italiano connazionale. Ma andiamo un attimo in pubblicità, perché poi avremo il senatore Manconi. Parliamo anche, non abbiamo detto il numero 800240024, ci potete chiamare su tutti gli altri argomenti. Ci potete chiamare anche con, se volete, per esempio, emendamenti a sorpresa di cui non sapremo mai l'autore, per mettere nell'angolo Cantone e l'anticorruzione. Mandateceli, perché noi li inseriremo automaticamente nei decreti del governo. Non vi preoccupate, perché funziona così in Italia. L'abbiamo capito ieri. Hai dei poteri enormi. Ma siccome non ci diranno mai chi è stato, capite? Ma fanno i colpi di mano e non ci dicono chi è stato. Gentiloni doveva dirlo in mezz'ora. Dove sei, Gentiloni? Lo so, sei negli Stati Uniti. Cavolo. Vabbè, no, tra poco. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, Oscar, siccome i grillini propongono la settimana da quattro giorni, io ho deciso di portarmi anche un po' avanti. E poi 3 giorni di messe, perché così la CEI è contenta. 3 giorni di messe, perché hai capito, la CEI è attenta che può prendere i voti. C'è stata una specie di trattativa. 4 giorni di lavoro, la CEI dice sì, però ci date 3 giorni di feste. No. Lavoreremo meno, lavoreremo tutti. Sai, il sociologo De Masi, ne abbiamo già parlato, eccetera. 4 giorni. Io settimana prossima mi porto molto avanti, lavorerò 3 giorni. E ti vieni beatificato dalla CEI a quel punto. Bagnasco ti fa un'intervista come oggi quella, capisci? Questa legge che dice al medico che può praticamente annullare l'effetto reale, altro che la legge 194. Siamo un paese della democrazia cristiana. Ecco, e Bagnasco dice neanche questo, no? Cioè, la CEI, quando si tratta di fare politica, non si fa mai. È suo pieno diritto, io non sto disconoscendo questo. Dico che i partiti naturalmente poi scompaiono. Però sulla giornata da 4 giorni, la settimana da 4 giorni, tu non hai niente da dire. Sulla giornata dei 4 giorni dico che anche in questo caso i 5 Stelle, guarda, hanno visto un enorme problema, perché hai visto che è una duplice serie di proposte, quella che loro stanno avanzando. E poi i sindacalisti fuori dalla politica. Da una parte, ecco, c'è il messaggio che, diciamo, dà sempre la bandiera dell'ultrasinistra, che è fallito in Francia, dal 35 ore, tutto. E loro però sanno che può attirare attenzione e dibattito di chi è deluso dalla sinistra renziana, dei poteri forti, e quindi dicono settimana di lavoro con lo stesso salario, naturalmente. Sì, cioè, ovvio, 4 giorni. No, è ovvio, ricordiamolo. No, perché io lo davo per scontato. Giusto. Senso che sennò vedrai tra un po' al Sole 24 ore, ci danno la settimana di zero, a me, a meno che sono esterno, 0 giorni alla settimana, e anzi dovrò ripagare. Sai che ti spiego questo: a noi collaboratori della radio l'INPS ci sta chiedendo, su tutti gli anni come collaboratori, di raddoppiare i contributi che abbiamo già versato. Lo sai questo? No, questo lo dico per gli ascoltatori, quindi voi che pensate che i giornalisti siano privilegiati, come no? Però a questo i 5 Stelle, cioè alla bandiera riduzione salario no, riduzione orario sì, affiancano una serie di proposte per diminuire, diciamo, le prerogative sindacali, quindi no alla partecipazione alle imprese, ma soprattutto fuori dalla politica, più trasparenza nei bilanci, in cui vedono che un problema esiste, perché un problema di legittimazione di rappresentanza dei sindacali è molto popolare nell'opinione pubblica. Vedi, quindi c'è un'intelligenza in queste due pedali che usano, no? Esatto. Comunque, con noi c'è il presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, il senatore Luigi Manconi. Buongiorno, senatore. Buongiorno a voi. Perché il caso del Grande, che prima abbiamo affrontato un po' con Marta Ottaviani, intanto l'ottimismo che oggi c'è sui giornali, pare che oggi incontrerà l'avvocato, il console, e quindi si va verso, si spera, una conclusione positiva, nel senso che ce lo restituiscono. È un ottimismo legittimo o al momento attuale del tutto immotivato? Si tenga conto di un fatto elementare, che questo incontro, se oggi davvero avvenisse, risulta con un ritardo di 12 giorni. Appunto. Cioè, nel momento in cui Gabriele Del Grande viene fermato e portato in un centro di identificazione, egli è sottoposto al sistema di garanzie previsto dalla Convenzione di Vienna del 1963. Di questa convenzione, valida per tutti i cittadini stranieri privati della libertà in uno Stato che abbia sottoscritto quella convenzione, di questa convenzione gli elementari, primari diritti da tutelare sono quelli incontrare la propria rappresentanza diplomatica, a incontrare il proprio avvocato di fiducia. Poi ricordiamo, senatore, abbiamo detto anche prima che la Turchia ha 14 giorni per trattenere poi fare eventuali formali accuse. Ecco, non vorremmo che appunto questo ottimismo poi si sparga. In realtà, perché i 14 giorni scadono tra 2 giorni. Il precedente del giornalista tedesco è 14 appunto. Giorni libero, no, 14 giorni lo tengono dentro con un'incriminazione durissima. Esatto, ed è la mia preoccupazione. Non voglio far calare un velo di pessimismo fosco, però io sono inquieto e altri come me sono inquieti che conoscono la vicenda, nel senso che questi 14 giorni si può temere siano utilizzati per presentare delle imputazioni di natura penale, cioè accuse che abbiano a che vedere con quei profili di sicurezza dei quali io ho parlato dopo un incontro riservato avuto con l'ambasciatore turco in Italia. Ieri si parlava appunto di qualcuno dalla Turchia ha incontrato terroristi. C'era questa frase che è uscita sui giornali. Certo, perché questo fa parte di una sorta di produzione di senso comune intorno alla vicenda che non ha alcun fondamento di realtà. Le dico un dato oggettivo: quando anche a me è stata riferita questa supposta imputazione, mi è stata riferita in termini un po' diversi, cioè avrebbe incontrato i supposti terroristi non nella sua vita di reporter, ma nel momento in cui si trovava nel centro di identificazione, e questo sarebbe stato il motivo del suo trasferimento al successivo centro di identificazione. Dunque è stata, come dire, elementare la mia replica: ma voi tenete i sospetti terroristi in un centro di identificazione, cioè non in carcere? La cosa è poco plausibile. Accanto a chi? Accanto a persone che hanno semplicemente i documenti irregolari, accanto a un giornalista che non aveva l'accredito stampa. Ecco, tutto ciò fa pensare, voglio essere smentito con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, che si stiano pensando alcune, ripeto, imputazioni di natura penale. Speriamo di no, però il precedente c'è, l'atteggiamento di usare giornalisti, come dimostra il caso tedesco, come ostaggi, strumenti di pressione, c'è, perché c'è un precedente. Speriamo di no, però Manconi, per concludere, perché noi terremo alta l'attenzione, lo facciamo già da qualche giorno, cosa deve fare l'Italia? O meglio, è stata morbida fino a questo momento l'Italia dal punto di vista delle... Chi ricorda qualche mia, come si può dire, esacerbata critica a proposito del caso Regeni, una polemica che forse qualche volta ho spinto oltre i limiti del decoro, sa che io non sono indulgente. In questo caso l'attività della diplomazia italiana è stata assidua e costante, non lo dico io, lo dice la compagna di Gabriele Del Grande, lo dicono i suoi familiari. Speriamo che continui così. Ecco, questo posso dire. Anche perché se tra 48 ore, e non vogliamo mai evocarlo, ma è giusto, come lei ha detto, purtroppo mettere anche sul piano questa possibilità, dovesse arrivare delle imputazioni formali, a quel punto che si fa? Guardi, io le posso dire dire una cosa, c'è un vulnus, ormai tutti i cittadini italiani sanno cosa significa, già inflitto per cinque giorni della sorte di Gabriele, trasferito in un secondo centro nella città di Moghlus. Non sono state informate le autorità italiane per cinque giorni, né che era stato trasferito, né il motivo del trasferimento, né che si trovasse in stato di isolamento. Quindi c'è un precedente di, come dire, riluttanza a rispettare i diritti, di resistenza a riconoscere le garanzie, che mi induce a quel pessimismo che vorrei davvero non fosse confermata dai fatti. Vediamo, domenica scade il 23 e i 14 giorni entro quali le autorità turche dovrebbero notificare eventuali accuse formali, staremo a vedere. Intanto, senatore, noi la ringraziamo ovviamente per essere stato con noi, senatore Manconi. Grazie a voi. E anche per occuparsi di questa vicenda, capisci? Ci e sono poi, come al solito, sembra vicende che qualcuno può dire di retroguardia, ma è una persona, una questione di diritti umani, la Turchia. E quindi, diritti umani, ci sono poi dei parlamentari, delle figure pubbliche italiane che, coerentemente a ciò che pensano importante nella loro vita pubblica, ma anche privata. Perché nel caso di Manconi è così, si danno da fare, diciamo, non è che sia tenuto per obbligo posizione questa, si danno da fare, e siccome per questo gli va riconosciuto, vanno ringraziati, ce ne fossero, terzo, in sintesi estrema. C'è Marcello che ci chiama da Roma, buongiorno Marcello. Sì, buongiorno, io vorrei intervenire a proposito della questione poteri anticorruzione nel sistema degli appalti pubblici. Io sono un segretario comunale, lavoro quotidianamente negli enti locali e volevo dire che la vera anomalia era lo strapotere che l'ANAC anticorruzione ha avuto fin qui in tema della cosiddetta funzione di soft law, che di fatto non ha svolto un'attività anticorruzione vera e propria, ma ha finito per paralizzare l'attività degli appalti pubblici e degli enti locali, dietro una logica di adempimento formale e non di reale prevenzione della corruzione. Quindi secondo lei andava secondo lei, siccome ha dato un giudizio, perché la prima parte sono d'accordo, nella seconda parte ha dato un giudizio, ha detto in una logica che non era di reale attività anticorruzione. Quindi secondo lei si muovono per determinare la paralisi? Quei poteri straordinari, no, le spiego la domanda, non sono polemico, per capire meglio come la pensa. Cioè, quei poteri straordinari, sono d'accordo con lei, figurati, io mille volte ho detto, è la foglia di fico di un sistema che ha tempi troppo lunghi della giustizia per lottare in maniera efficace contro la corruzione, ci creiamo un super sceriffo al di là, perché sta molto oltre i normali poteri di controllo amministrativo, come se fosse la giustizia, però inaudita altra parte con i diritti della giustizia. Quindi io capisco il fondamento giuridico, ma possiamo arrivare al punto di disconoscere che quei poteri sono stati a cantone perché il sistema dei controlli ha fallito clamorosamente e quindi c'è stata la necessità di questo. Secondo lei invece l'intenzione era bloccarvi, paralizzarvi? Ma nulla da dire sull'intenzione, che quella potrebbero saperla soltanto coloro che hanno conferito questi poteri, ma di fatto l'anticorruzione e il sistema italiano obbligano gli enti locali a redigere ogni anno un super piano anticorruzivo che incasella la realtà comunale e impedisce di svolgere una vera attività concreta, che si svolge attraverso un controllo sui procedimenti reale e non incasellato da adempimenti formali. Quindi diciamo che sull'intenzione non possiamo dire nulla, ma il risultato è sotto gli occhi. Il risultato è questo. Quindi, insomma, però questo è stato la verità è che però è stato un giallo, perché hanno tolto i poteri a cantone facendo sparire un comma di un articolo e poi quando si sono accorti... In un decreto delegato, quindi il Parlamento l'aveva voluto, loro l'hanno fatto sparire, c'è un problema di incostituzionalità. In due secondi ha detto, no, è stato un errore, rimetteremo. Quindi evidentemente c'è stato anche una non volontà di toglierlo. Capitato più volte, anche al governo Renzi, ti ricordi, che cambiamo i testi, non abbiamo mai saputo che li fa cambiare, quale capo di gabinetto è stato armato tra virgolette dal Consiglio di Stato, il potere dei funzionari, e come vedi interpretando poi opinioni che hanno il loro fondamento, perché la telefonata dice niente di male, basta sapere chi cambia le norme su decreti delegati contro gli indirizzi espressi dal Parlamento e dateci un nome e un cognome. La politica è fatta nella trasparenza e democrazia, invece il tentativo è quello di non dircelo. Va bene, settimana prossima, la settimana ipergrillina per quel che vi riguarda. Ipergrillina. Però bisogna anche dare, mettiamo a tema questo pacchetto di proposte. Da una parte i quattro giorni e dall'altra le limitazioni ai sindacalisti. Se vuoi farlo lunedì, se vuoi aspettarmi mercoledì. Io ti aspetterei, io per coerenza ti aspetterei mercoledì, visto la settimana dei tre giorni, mi sembra giusto così. Affare fatto. Allora a lunedì per voi, a mercoledì per me. Grazie.